Italia in controluce. Buongiorno da Alessio Maurizi, eccoci di nuovo all'appuntamento su Radio 24 con la cronaca, le storie grandi e piccole che ci parlano dell'Italia in controluce. Gli artisti che raccontano la loro terra. Proseguiamo con questa serie di interviste. Questa volta è Paolo Fresu a parlare della sua Sardegna. Sentiamolo al microfono di Vanessa Quinto. Come mi descriverebbe con pochi aggettivi la Sardegna? Isola bella, con una natura bellissima e con della gente molto speciale, direi. Appunto, i sardi invece? E i sardi sono un popolo vero, insomma, in qualche modo sono delineati, come dire, dal perimetro di quest'isola che è poi circondata dal mare, quindi hanno delle particolarità che derivano proprio dall'insularità, quindi siamo sicuramente molto ospitali, così dicono, testardi da un'altra parte e comunque fieri di essere sardi. Quanto incide nella personalità dei sardi avere un mare così bello e una natura così rigogliosa? Ma credo che incida molto, perché ci si sente comunque appunto parte di quel territorio. Spero che incida anche sulle scelte future che andremo a fare rispetto alla Sardegna. Appunto, quindi preservarla come tale. Lei non manca quando è fuori, visto che comunque viaggia tanto e vive un po' in tutto il mondo alla fine? Viaggiando molto si capisce anche quanto in fondo poi il luogo che abbiamo sempre visto sia più bello di quello che si pensi, quindi la riflessione sull'ambiente, sul territorio, secondo me va fatta e va fatta immediatamente. Penso anche soprattutto funzionalmente poi ai nuovi percorsi della storia, purtroppo non belli di questo momento. Possiamo dire che lei sta per compiere 50 anni? Sì. Come l'ha vista cambiare in questi 50 anni? Ma l'ho vista cambiare molto, naturalmente, non so se in bene o in male. Sicuramente sono cambiato molto io, nel senso che avendo visto il mondo, essendo cresciuto, ho avuto l'opportunità di vedere la Sardegna con occhi diversi e di capire probabilmente anche la sua bellezza, il fatto che una volta si pensava sempre che le cose che venivano da fuori erano migliori, poi quando si vede il mondo ci si rende conto che ognuno ha delle cose da portare in dote e c'è una ricchezza che comunque va preservata. Sappiamo che ha pensato a un festeggiamento particolare per i suoi 50 anni, vero? Beh sì, un'idea un po' folle, che di quelle che si possono fare solo a 50 anni, un progetto di una tournée di 50 giorni solamente in Sardegna, che inizierà il 12 giugno proprio a Berchida, il mio paese natale, e si chiuderà il 31 luglio a Cagliari, con 50 gruppi completamente diversi tra di loro, 50 concerti in 50 luoghi straordinari dell'isola. Ma scusi, è il suo compleanno, perché anziché farsi un bel regalo, regala a noi la possibilità di assistere a uno spettacolo così meraviglioso e anche di scoprire territori nuovi? Ma perché io credo che la Sardegna mi abbia dato realmente molto, i sardi mi hanno dato molto, mi amano molto e io credo di dovere molto, quindi insomma il regalo mi viene fatto tutti i giorni e io penso di doverlo rendere a quest'isola. Ha nominato Berchida, che effetto le fa ormai dopo 24 anni vederla ogni estate così piena di ragazzi che si muovono da tutta Italia e anche da fuori per venire al festival? Ma devo dire, una bella gratificazione, soprattutto in questo momento così complicato in cui si discute anche molto dei temi della cultura, i tagli, quindi insomma continuare a fare un festival dopo 25 anni nonostante le difficoltà è comunque importante, significa spendere energie. Berchida è fatta veramente di giovani, ha detto bene, ci sono non solo i volontari che sono centinaia che lavorano per il festival e che sono l'anima del festival stesso, ma proprio veramente una grande quantità di giovani che durante quei giorni arrivano a Berchida perché trovano che Berchida sia un bel luogo per l'incontro. Italia in controluce. E ora parliamo di scuola, come ogni lunedì mattina, con Maria Piera Ceci. Scuola in controluce. Silvia di Narcao in Sardegna, 16 anni, frequenta la terza liceo dell'Istituto Minerario di Iglesias. La frequenta nonostante una malattia degenerativa che la inchioda al letto ormai da tempo. Infatti la sua scuola, la sua classe, a trasferirsi ogni giorno nella sua cameretta. Ed è per questo che l'Istituto Tecnico Industriale Minerario Asproni di Iglesias ha ricevuto un riconoscimento speciale dalla Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, la FISH, che qualche giorno fa ha premiato i vincitori di quest'anno del concorso Le Chiavi di Scuola. Migliaia le segnalazioni arrivate su scuole virtuose che davvero si fanno in quattro per garantire a tutti il sacrosanto diritto allo studio. Walter Pagano è l'insegnante di sostegno della classe di Silvia, studentessa di una scuola davvero molto speciale. Molto speciale in quanto appunto si è iscritta questa ragazza disabile e non ha la possibilità di seguire le lezioni direttamente a scuola. E quindi la scuola ha messo in essere questo progetto di istruzione domiciliare,